e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti, ben ritrovati a Cuore e Denari. Siamo pronti alla seconda puntata di Cuore e Denari in diretta da Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione che si tiene a Parma. Se siete nei paraggi, allora vi invito subito, venite a trovarci presso lo stand di Radio 24, padiglione 7, stand C121. In questa manifestazione, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni con Focus Economia, ieri con Nicoletta naturalmente ed altri programmi, ci sono tutte le società più importanti dell'industria agroalimentare italiana. È un settore molto vivace e molto importante per tutta l'economia del nostro paese, che è riuscito molto bene a tenere botta in questi anni di crisi. Ieri è stata al timone del programma Nicoletta, oggi ci sono io con una puntata che toccherà i temi del cibo e dell'alimentazione, ma naturalmente con uno sguardo più legato ai denari. Parleremo di consumi in termini generali, delle politiche di prezzo praticate dalle insegne della grande distribuzione, quindi cosa cercano i consumatori naturalmente quando vanno a fare i loro acquisti, quando naturalmente compongono il carrello della spesa e come si orientano fra le promozioni. Parleremo anche dell'industria di marca, delle private label, cercheremo di capire se conoscete questo ambito e anche come vi muovete in questo mondo, e poi parleremo di una professione legata al settore alimentare. Ci sarà con noi una bella sorpresa alla fine della trasmissione, parleremo dunque di food blogger, ma prima di tutto questo dobbiamo aprire la nostra trasmissione con la nostra consueta rassegna stampa. Partiamo come sempre con uno sguardo all'andamento della giornata finanziaria. Oggi pessima la seduta di borsa, Piazza Affari sta perdendo 2 punti percentuali, ma le fanno ben compagnia le altre piazze europee, anche se perdono molto meno rispetto a Milano: Londra meno 0,3%, Parigi in ribasso di 1 punto, Francoforte meno 0,56, Milano meno 1,91%. Ribasso pesantissimo di tutti i titoli del settore bancario, tanto per cambiare, ancora una volta a perdere terreno sono gli stessi titoli che animano le sedute di borsa tutti i giorni praticamente. Il Banco Popolare sta perdendo più di 8 punti, la Popolare di Milano meno 7, sono le due promesse spose. Il Banco Popolare a giugno ha un aumento di capitale da 1 miliardo proprio finalizzato all'operazione di integrazione con la Pop Milano, ma la BCE continua a chiedere perfezionare appunto i termini di questa aggregazione continuamente, e oggi i titoli ne risentono. Peraltro ieri il Banco Popolare ha rassegnato la sua trimestrale che ha deluso le attese, il rosso del trimestre è pesante, questo è oggi il responso di borsa. Ma ci sono molti altri titoli che vanno male, perde più di 5,5 punti anche Mediaset, Ubibanca meno 5, il Monte dei Paschi ancora una volta meno 4 punti, Unicredit meno 3,5 punti, Pop Emilia Romagna meno 3,5 punti. Andiamo a vedere chi si salva oggi. Moncler più 3, ha ricevuto un giudizio positivo da parte degli analisti di UBS, Leonardo Finmeccanica più 2,60 invece promossa da JP Morgan. Allora, a proposito di banche, peraltro, so che molti di voi aspettano che noi raccontiamo a Cuore Denari le novità intanto sui provvedimenti che sono stati presi per indennizzare i risparmiatori che sono rimaste vittime appunto del provvedimento di risoluzione delle quattro banche dello scorso novembre. E poi naturalmente a tutto questo si sono unite anche le recenti notizie che riguardano Banca Etruria. Sarebbe a quanto pare alla luce questo meccanismo che sarebbe stato concordato all'interno della banca di scaricare sui piccoli risparmiatori le obbligazioni subordinate che poi sono state al centro del procedimento appunto di risoluzione. Allora, noi ci vogliamo tornare per bene su questo argomento, ci siamo presi un po' di pausa in questi giorni qui a Cibus per affrontare altri argomenti, stiamo mettendo in pista una trasmissione, sicuramente la faremo venerdì. Domani vi ricordo che abbiamo invece Investire Informati, per cui non ci dimentichiamo naturalmente di questi temi che vi stanno molto a cuore. Altre notizie di denari. Allora, le retribuzioni totali annue degli italiani crescono in media del 3,7% nel 2015 rispetto all'anno prima, aumentando il potere d'acquisto dei lavoratori grazie all'inflazione sostanzialmente nulla. Chi lo dice? Il rapporto retribuzioni di ODM Consulting, una società di G-Group, a partire da analisi condotte su quasi 380.000 lavoratori del settore privato. Gli aumenti maggiori premiano i dirigenti, sono quasi fermi i compensi degli impiegati. Su un dato non possiamo non soffermarci: si ampliano le differenze di compensi fra uomini e donne all'apice delle carriere, a parità di funzione le donne continuano a guadagnare meno degli uomini, circa il 12,7% in meno degli uomini fra gli operai, il 10,3% in meno per i dirigenti, il 7,2% in meno per i quadri. Dal punto di vista geografico, il nord-ovest presenta le retribuzioni più elevate per tutte le categorie professionali, il sud e le isole le più basse. Una notizia che mette insieme cuore e denari e che riguarda proprio questa edizione di Cibus. Col Diretti, sentite che cosa ha fatto, ha messo all'asta dei tagli di parmigiano extravecchio qui in fiera. Il ricavato verrà destinato in beneficenza per sostenere nelle aree più povere del mondo 38 interventi di agricoltura familiare a favore di 114.248 famiglie di contadini. E quindi c'è un invito a tutti i visitatori che facciamo volentieri anche noi di cuore e denari, mettiamo una mano sul cuore, ne mettiamo un'altra sul portafoglio e possiamo mettere anche i denti su questo buonissimo parmigiano. So che vi fa molto ridere, ma insomma è una cosa divertente anche di solidarietà. Per la rassegna di cuore partiamo invece oggi da una notizia che arriva dagli Stati Uniti. L'amministrazione Obama vieta la vendita di sigarette elettroniche ai minori di 18 anni. La nuova norma entrerà in vigore fra 90 giorni, servirà, secondo la Food and Drug Administration, a proteggere i minori dal rischio di sviluppare dipendenza da nicotina. Nel frattempo, la California compie un nuovo passo nella guerra al fumo, alzando l'età per acquistare le sigarette e il tabacco a 21 anni dagli attuali 18. L'obiettivo naturalmente è quello di allontanare i ragazzi dal fumo. Secondo uno studio dell'Istituto di Medicina, il 90% dei fumatori infatti inizia negli Stati Uniti ad usare tabacco ben prima dei 19 anni. Da oggi basta dire sei lunatica. Secondo i ricercatori dell'Ontario Institute, che hanno osservato i legami fra la Luna e i nostri comportamenti, emerge che la Luna nelle sue diverse fasi non influenzerebbe più di tanto il comportamento e le azioni umane. L'unico dato significativo sarebbe l'alterazione del sonno dell'1% appunto con la Luna piena. Chiudiamo con una curiosità, luce e musica sono il segreto per iniziare bene la giornata. In un video che trovate anche sulle nostre pagine Facebook, che potete raggiungere attraverso il sito di Radio 24, ASAP Science ci suggerisce 7 modi per svegliarci e partire con il piede giusto. Andatelo a vedere, è un video che abbiamo tratto da YouTube, molto interessante. Dai, usciamo a fare la spesa. Questa è una canzone che ci ha accompagnato per tantissimi mesi, lo ricorderete l'anno scorso quando abbiamo seguito tutti i lavori di Expo 2015, abbiamo fatto Cuore Denari Expo 2015 seguendo naturalmente sia un gruppo di riscaldati ascoltatori che abbiamo aiutato a fare anche una buona dieta per rimettersi in forma, ma abbiamo osservato molto attentamente anche come questi ascoltatori componevano il loro carrello della spesa. È un tema sempre molto interessante, un po' perché in questi anni di crisi chiaramente i consumatori hanno rivisitato in alcuni casi in maniera molto drastica le loro abitudini di consumo e di spesa, e poi perché questo è un settore estremamente concorrenziale del quale ci piace anche osservare gli andamenti, i trend. Chiaramente anche di tutto questo si parla qui a Cibus 2015 e noi vogliamo affrontare l'argomento con un grande esperto di marketing e consumi e non solo, tantissime le competenze, dell'amico Luigi Rubinelli, che torna a trovarci dopo tanto tempo. Luigi, benvenuto. Grazie, buongiorno. Mi permetto questa confidenza perché con Luigi ci conosciamo da tantissimo tempo, non tanto perché oggi è direttore di Retail Watch, ma perché in passato è stato anche direttore di Markup, che è una rivista appunto che il Sole 24 Ore conosce molto bene, l'ha fondata nel 1994, ho ritrovato questa data, perfetto, si può dire correttamente, naturalmente sono risalita a tutte le informazioni che troviamo su internet. Non ti conosco da quei tempi, ti ho conosciuto più recentemente, però ti conosco da un bel po'. Soprattutto hai scritto anche alcuni libri su questo mondo, ne ricordo qualcuna: Retail di marca, la strategia retail nella moda e nel lusso, e poi Layout, 50 negozi che sopravviveranno all'online, anche questo è un tema molto interessante. Che cosa stai trovando di interessante a questo Cibus 2015, intanto ti chiedo, poi parleremo delle politiche promozionali, delle politiche di prezzo che i consumatori trovano nei negozi, nella grande distribuzione. Beh, Cibus è un grande osservatorio, bisogna girare molto, guardare con attenzione i singoli particolari e si può fare anche un'analisi antropologica sul campo. Cioè Cibus segue quello che la gente vuole, i produttori, i distributori non possono bleffare più di tanto, quello che comanda è il consumatore, quello che vuole. Diciamo che ogni tanto qualcuno fa degli strappi, come ad esempio l'olio vegano, ma alla fine si può ragionare... Non ti ha proprio convinta questa... Non mi ha convinto, perché l'olio è un prodotto vegetale. Possiamo raccontare l'aneddoto che ti è capitato, o non si può dire? No, si può dire. Un produttore è venuto a dirti che lui fa l'olio d'oliva vegano. Io ho ribadito che l'oliva più vegana di più così vegana non può di essere così. Gli ho detto metta dentro un po' di carne che magari lo trasformiamo, poi qualcuno protesterà. Insomma, no, questo anche per dire che io per esempio sotto gli occhi in questo momento ho la lista dei 1000 nuovi prodotti del food made in Italy in esposizione a Cibus. Poi qualche cosa divertente e interessante la voglio raccontare a qualcuno. Magari i nuovi alimenti che citerò potranno sembrare anche un po' stravaganti per gli abbinamenti, in realtà però come diceva giustamente Luigi, sono produzioni nuove che stanno correndo dietro alle esigenze nuove del consumatore, che non solo è attento alle politiche di prezzo, ma oggi sempre di più, Nicoletta Carbone lo sa bene, allo stile di vita e quindi consuma in maniera diversa anche per stare bene, quindi non sono solamente come dire, mode, come qualcuno ama definirle. Luigi, ci fermiamo, abbiamo il traffico e poi prendiamo il via con una bella conversazione con te, a tra poco. Cuore e denari. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Allora, intanto una piccola correzione al collega che naturalmente ha condotto fino a qualche istante fa lo spazio sul traffico. Siamo a Cibus 2015, non 2010. Si è sbagliato, no? Ha detto 2010 lui, se non sbaglio. Ha corretto, poi sì, esatto, poverino. Poi siamo al 2016, tra l'altro, ecco. Quindi qua continuo anche io a perseverare, ma insomma ci aveva fatto un po' sorridere. Detto questo, riprendiamo un po' le fila del nostro programma. In questa edizione di Cibus si parla anche di politiche di prezzo tra i prodotti dell'agroalimentare e tra i prodotti appunto alimentari. Con noi questa mattina c'è Luigi Rubinelli, direttore di Retail Watch, che è una rivista un po' particolare perché più che altro Retail Watch, Luigi, è un luogo di discussione su questi argomenti. Assolutamente sì. Allora, oggi parteciperai a questo convegno sul tema saturazione della promozione di prezzo. Vi leggo il presupposto, il preambolo di questo evento. Per aumentare la penetrazione dei nuovi prodotti e dei prodotti di cui il cliente non ha esperienza, non vi è alternativa alla promozione, perché è la promozione che induce a provare prodotti di cui non abbiamo esperienza, rinunciando spesso solo per un periodo ai prodotti che preferiamo. Quindi in questo convegno, a quanto pare, si cercherà di mostrare ad industria e distribuzione le possibili vie per fronteggiare la saturazione della promozione di prezzo. Che vuol dire, Luigi? Vuol dire che siamo arrivati ad un tetto massimo, di più non si può fare, bisogna scendere, anche perché la gente si interroga su che cos'è il prezzo di un prodotto, cioè quello che compra. Il prezzo oggi purtroppo non è trasparente. Perché dici così? Ci puoi fare qualche esempio concreto per capire se questa mattina mia zia sta andando al supermercato appunto e ci ascolta, gli accendiamo una lampadina, come deve orientarsi allora con il suo carrello della spesa fra i vari scaffali? Allora, il taglio di prezzi oggi è la promozione più in voga, il 3x2 forse è un po' dimenticato, perché la gente compra sempre di meno, vuole tutto subito e il taglio di prezzi la accontenta. Gli scaffali sono pieni di questi tagli di prezzo, è per quello che poi uno si interroga e dice... Quanto costa esattamente quel prodotto? Non tanto nei prodotti confezionati, ma nei prodotti freschi, nell'ortofrutta, nel formaggio, nella carne. Il taglio prezzi qui è devastante, perché già non hai raffronti, perché non ci sono le marche. In secondo luogo, perché effettivamente ce ne sono troppi e alla fine uno si domanda quanto ho speso veramente? Vi fate mai questa domanda? Lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, se effettivamente notando questa gara al meccanismo promozionale nei negozi naturalmente che vengono maggiormente frequentati, se si interrogano effettivamente, ma insomma se io se un prodotto che ho sempre pagato ad un determinato prezzo per un tot di tempo lo trovo al 50%, poi magari faccio anche fatica a riabituarmi, Luigi, a pagarlo a prezzo pieno. Anche questo meccanismo mentale va analizzato seriamente. Assolutamente. Allora, ci sono vari strumenti. No? C'è il volantino cartaceo, c'è il volantino online, tutti i coupon online che viaggiano in maniera smisurata. tutti li usano e ad esempio il volantino della spesa è diventato il volantino cartaceo, uno spunta i prodotti più interessanti, va in quella insegna, in quella catena, compra i prodotti in promozione e basta, se non c'è quella data marca, quel dato prodotto, cambia l'insegna e va a cercare il prodotto nell'insegna concorrente. I supermercati sono dappertutto, certo, come sappiamo oggi. Senti, ma ci sono certe categorie di bene, certe categorie merceologiche che riescono a spingere con un grande frequenza sempre più verso il basso i prezzi, o comunque sono, come dire, meccanismi ciclici che periodicamente riguardano categorie merceologiche diverse, oppure c'è chi proprio riesce a farlo sempre a beneficio o a vantaggio del consumatore, appunto? Visto che siamo a Cibus, l'olio è uno di quelli. Mm. L'olio è perennemente in taglio prezzi. Dire quanto costa veramente un litro di olio o 750 cc, che è il formato medio, è veramente impossibile. Io tante volte ci perdo la testa. Davvero? Sì. Oltre all'olio? Oltre all'olio, i dolciumi, gli snack. All'inizio della trasmissione parlavi dei prodotti del benessere, del salutismo, che è un trend molto in crescita. Per far provare i prodotti, ovviamente, le industrie di marca cercano di tagliare sul prezzo. Quanto costa quel prodotto del benessere? Non lo sapremo mai, non lo sapremo mai. Senti, che cosa ti piacerebbe sapere dai nostri ascoltatori? Tu hai anche collaborato tanto con Radio 24 in passato, quindi sei abituato a questo filo diretto, anche per arricchire un po' il tuo sito. Che tipo di testimonianze ti piacerebbe portare a casa, così li vivacizziamo un po' stamattina? Beh, ad esempio, quanti prodotti comprano mediamente e con che frequenza e ogni quanto la cambiano. Benissimo. 800 24 00 24 per rispondere a questa sollecitazione. Attenzione che alla ripresa di Cuore e Denari dopo il giornale radio vi racconto i 1000 nuovi prodotti del food made in Italy che sono in esposizione a Cibus. A tra poco. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da... Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh? Da chi? Dallo charcutier alla cantonata. E chi è questo charcutier? Il pizzicagnolo, il salumiere. Il casaduoglio. E parla chiaro. Il bottegaio. Oh. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco. Poi ti fai dare una bella buatta di pomodoro, perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Ti fai dare 1 kg di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quello c'è la macchina trita carne. Piglia la pelle, l'infila, trrtata, trrtata, te la fa davanti a te. Chiaro? Vogliamo fare la bella padellata di uova? Assicurati che siano fresche, Tu le agiti. Se sono fresche te le pigli. Se no, desisti. Quante volte ve l'abbiamo proposto questo brano con Totò, questa famosissima lista della spesa. Luigi Rubinelli, direttore di Retail Watch, sicuramente senza tante promozioni in passato, una bella lista, come dire, tradizionale, mediterranea, fresca soprattutto. Allora, siamo a Cibus 2016, anche noi di Cuore Denari siamo in diretta da qua e questa mattina grande attenzione al portafoglio delle famiglie italiane. Abbiamo fatto un primo focus nella prima parte della trasmissione, che magari continueremo a fare adesso perché ci sono ancora tanti aspetti da affrontare, sul tema della promozione dei prezzi che a volte disorientano i consumatori perché alla fine non riescono a capire qual è, no Luigi, il prezzo giusto da pagare per un prodotto. Alla fine il tema è quello. Il prezzo equilibrato. Il rapporto qualità-prezzo famoso. Quello che ci dà l'idea della qualità del prodotto che stiamo acquistando, ma che giustamente poi va anche a remunerare l'azienda che lo produce, quella che lo distribuisce e quant'altro. Quando poi si spinge tanto verso il basso, alla fine anche i consumatori non sanno più come orientarsi e fanno anche difficoltà a capire di quali offerte approfittare, perché come succede per esempio a Fabrizio da Ancona, addirittura si fanno poi delle scelte drastiche come quelle di portare a casa, Fabrizio, prodotti che hanno almeno un paio di anni di scadenza per approfittare del super sconto. Benvenuto. Sì, praticamente io mi regolo così, no? Dato che ormai ho imparato, perché ho buona memoria, che due volte l'anno ci sono delle offerte al 50%, cioè roba da 6 euro. Due volte l'anno, ma io le trovo 10 volte a settimana, Fabrizio, ma, e sono anche in età, comunque frequento anche quei luoghi. Che supermercati frequenta? L'S Luca, no, ma io parlo due volte l'anno sullo stesso articolo, non in generale. Su quell'articolo ogni 6 mesi mediamente c'è il 5, passa da 6 euro al chilo a 3 al chilo. Ho capito. E io in quel momento lì approfitto, faccio delle carrellate e me ne porto a casa anche 12 chili, mi è capitato, no? Addirittura. Perché tanto so che li mangio, perché mi sono sempre piaciuti certo. li mangiamo, no? Li mangio, siamo. Grazie Fabrizio. Adesso che beneficio ha il suo portafoglio rispetto a queste scelte? E il portafoglio fa beneficio... un bilancio alla fine dell'anno di tutto il suo risparmio? Ma così alla lunga no, però sul momento mi accorgo di aver risparmiato 15 euro subito al botto. Certo. Il problema mio però, che ho una coscienza sensibile, dico, non è che questa povera azienda non ci sta dentro coi margini e poi mi mette dentro magari delle cose di qualità inferiore la prossima volta, quello mi chiedevo. Addirittura. Io. Fabrizio, grazie per la sua testimonianza. Luigi, cosa ci suggerisce questo comportamento di questo consumatore? È un comportamento medio, diffuso. Molto diffuso. Magari non su quei prezzi, perché ha detto dei prezzi un po' altini e il nome di una catena che da quelle parti non c'è. Esatto. Ma comunque ce ne abbiamo altre molto, molto presenti. Però un comportamento medio. Quello della pasta è una bella challenge. Qui qualche produttore spinge della nuova pasta verso l'alto, della tradizione, ma con dei nuovi contenuti di materie prime. Non dico la marca per ovvi motivi, ma ce n'è più di uno in qualche padiglione di Cibus. Intanto ti dico che le tue sollecitazioni sull'olio d'oliva precedenti hanno suscitato molti commenti da parte degli ascoltatori. Noi dicevamo che chiaramente per un prodotto di quel tipo, non per quello vegano, al di sotto di un certo prezzo dobbiamo cominciare un po' a fare un ragionamento su quella che è la qualità che ci viene prodotta, ed effettivamente Egidio suggerisce che il prezzo così basso che notiamo quando ci sono delle promozioni molto insistenti su quel prodotto, Egidio dice, è vero che riguarda principalmente l'olio di bassa qualità fatto con olive di varia provenienza. Su che prezzo dobbiamo cominciare a dubitare quando viene spinto particolarmente verso il basso, Luigi, su questo prodotto? Dobbiamo stare attenti. Io personalmente sotto gli 8 euro non lo guardo l'olio. Chi è che fa qualcosa di molto più basso, addirittura la metà di questa cifra che tu hai detto, dobbiamo considerare che arrivi l'olio d'oliva. Adesso non vorrei fare una trasmissione solo su questo, però vedo che stanno arrivando molti messaggi. Da molte parti si produce un mix e ovviamente il prezzo scende. Però siccome siamo in Italia, guardiamo alle nostre olive, ai nostri oli, bisogna capirlo immediatamente, anche perché il prezzo così basso, non so, 4 euro non può andar bene onestamente. Allora, l'olio d'oliva che ha la marca di una grande insegna, di una grande distribuzione, c'è Romolo De Camillis, retail director di Nielsen, o director, non so come lo devo dire all'inglese. O diciamo, direttore, va direttore. Benissimo. Esatto, buongiorno. E benvenuto anche a Buongiorno. Lei. De Camillis, lo abbiamo coinvolto per portarci un altro contributo, proprio per parlare dei prodotti a marca del distributore. Vi leggo qualche notizia su questo ambito, perché il Sole 24 Ore, peraltro, proprio qualche tempo fa, con un articolo l'ha definita una rivoluzione silenziosa ma inarrestabile, perché nella grande a marca del distributore stanno conquistando sempre più spazio sugli scaffali, stanno riempiendo sempre di più il carrello della spesa e insidiano il potere dei grandi brand. Il volume d'affari del private label ha raggiunto i 9,5 miliardi in rapporto ai 52 miliardi circa del largo consumo confezionato. Sono numeri che si avvicinano sempre di più, che avvicinano sempre di più l'Italia al resto d'Europa, dove la marca privata presidia in media quasi il 28% del mercato. Rispetto, De Camillis, a quanto in Italia? Quanto mercato 18% fanno? 18% circa. Allora, questi che ho dato sono dei dati di Feder Distribuzione e di un osservatorio dell'Università di Parma, ma so che voi oggi ne presentate altri ancora più aggiornati. Che cosa ci racconta questo mondo in Italia? Confermo che è una tendenza di lungo periodo, quindi è una, diciamo, una marcia lunga quella che sta facendo la marca del distributore in Italia. Diciamo, preferiamo chiamarla marca del distributore, così è chiaro a tutti di che cosa stiamo parlando. È una marcia anche che ha avuto uno stop and go lo scorso anno, perché è stata riposizionata su prodotti di più elevata qualità. E quindi si è rinunciato un po' alle linee di primi prezzi, che sono prodotti a bassissimo prezzo, introdotti per lo più per fronteggiare la concorrenza e il discount, e si è iniziato a sviluppare invece linee di prodotto che vanno a soddisfare dei bisogni che crescono, quindi sono bisogni legati allo star bene, al mangiare bene, che le aziende della distribuzione vogliono cogliere, vogliono interpretare attraverso prodotti di marca propria. E questo, diciamo, quindi hanno messo benzina perché questa macchina corra più veloce nel futuro, quindi acceleri ulteriormente, con buon gradimento da parte dei clienti. Consumatore. Sono ormai coperte quasi tutte le referenze, Camillis? Sono coperte tutte le categorie merceologiche. Il consumatore non può trovare magari tutti i segmenti, perché è un business, quello delle marche del distributore, che si basa anche abbastanza sui volumi, quindi funziona molto bene quando la catena riesce a garantire al produttore, al co-packer tecnicamente che fornisce il prodotto, dei volumi importanti. Tanto più la catena riesce a garantire dei volumi di vendita importanti, tanto più, diciamo, c'è la possibilità per il cliente di acquistare un prodotto con un livello di qualità alto e con un prezzo ragionevole. Vorrei anche su questo argomento stuzzicare i nostri ascoltatori all'800240024, quindi raccontateci sia come vi orientate fra le promozioni, per completare il ragionamento che abbiamo fatto nella prima parte del programma, secondo, acquistate i prodotti con il marchio del supermercato, del distributore, in base a che cosa li scegliete, come vi trovate, lo fate solo per alcune categorie di prodotti, mentre per altri proprio non ne riuscite ad allontanarvi dal brand tradizionale, quello più noto, oppure insomma il mood che vi spinge è un altro, prezzo, qualità, cos'è che vi orienta appunto in questo mercato. De Camillis, allora, il tema dei prodotti della marca appunto del distributore, uno degli interrogativi più diffusi fra i consumatori quando naturalmente cercano anche fra queste referenze è: chi produce questi prodotti, naturalmente, se sono effettivamente di qualità diversa? Non credo che sia la prima volta che questa domanda le viene rivolta, non perché lei sia un produttore, ma perché è un osservatore molto attento di questo mercato. Allora, che tipo di risposte ricevono i consumatori su questo interrogativo importante? Sono delle risposte, credo, abbastanza trasparenti, soprattutto grazie alla reintroduzione dell'obbligo della produzione, diciamo, dello stabilimento di produzione sull'etichetta. Quindi un consumatore attento ha la capacità di guardare i prodotti e vedere, diciamo, lo stabilimento di produzione, e uno particolarmente attento anche di capire che produttore di marca c'è dietro la produzione della marca del distributore. E con il distributore che si è impegnato, la maggior parte dei distributori che si è impegnata, diciamo, a rendere pubblica questa informazione sui prodotti a marca commerciale. Quindi si gioca molto sulla trasparenza rispetto al consumatore. Io credo, insomma, siano note iniziative anche di blogger, tipo Io Leggo l'Etichetta, che permette ai clienti proprio di fare questo tipo di confronto, quindi di capire alla fine che produttore c'è dietro il prodotto, e nella maggior parte dei casi, diciamo, per quello che sono le mie conoscenze, il prodotto è identico a quello del produttore di marca. Però anche in questo caso, diciamo, la composizione, l'ingredientistica che è obbligatoria sull'etichetta, consente a un consumatore attento che voglia valutare effettivamente se stiamo parlando di un prodotto del tutto identico oppure no, di capire se, insomma, il prodotto, diciamo, ha lo stesso standard qualitativo del prodotto con il marchio industriale. Luigi Rubinelli, Retail Watch, come osserva questo? Lo possiamo chiamare fenomeno? Come possiamo definirlo? Un nuovo trend di mercato inevitabile, appunto, e anche in questa corsa che ci vede stare un po' indietro rispetto al passo europeo? Allora, per aggiungere qualcosa in più rispetto a quello che diceva Camillo prima, ci sono diverse insegne che hanno dei siti dedicati in Italia, in Europa, dove proprio spiegano da dove arriva quel prodotto, chi lo produce, che caratteristiche, le materie prime che vengono utilizzate e via dicendo. In più ogni insegna ha un controllo qualità. Quindi tanto per fare proprio un esempio brutale, perché questo è il primo che mi viene sempre in mente, la pasta dell'Esselunga. Se io vado a controllare la confezione, naturalmente nell'etichetta retrostante, trovo tutte queste informazioni, mi dicono esattamente in quale stabilimento questa pasta viene prodotta e potrebbe essere potenzialmente anche lo stesso stabilimento da cui viene fuori una pasta di un brand più noto? Certamente sì, In molte categorie ci sono le industrie di grande marca che producono per le marche del distributore, ormai sono tantissime, non c'è più un'inversione di tendenza riguardo a questo. E sono due catene di montaggio diverse che producono Siamo nei grandi volumi, non si può fermare la produzione di un prodotto per dire arriva quello del supermercato, mettiamo dentro degli ingredienti di altra qualità. Anche perché le insegne, i distributori, i supermercati hanno degli uffici del controllo qualità che sono uguali a quelli dell'industria di marca, cioè controllano quello che il co-packer, come diceva Camillo, fa per forza di cose. E quindi, insomma, perché siamo così indietro rispetto all'Europa? Perché noi ci stiamo avvicinando con un po' più di prudenza al mercato delle private label? Colmeremo questo gap? Nel lungo periodo sicuramente sì. Diciamo che siamo partiti tardi. All'inizio le marche del distributore erano delle brutte copie dei prodotti dell'industria di marca. Poi ovviamente il marketing è progredito, sono stati fatti degli investimenti e oggi hanno una dignità uguale a quella della marca. Per quello che riguarda Nielsen voleva aggiungere qualcosa? Sì, c'è un'altra ragione che si aggiunge a quelle diciamo, menzionate da Rubinelli, ed è la correlazione molto forte che esiste tra il livello di concentrazione del settore distributivo e la quota delle marche private. Tanto più è concentrato un settore, tanto più grandi sono le aziende distributive, tanto più diciamo è facile fare marca privata, per quel discorso dei volumi che spiegavamo prima. In Italia, rispetto a tutti gli altri paesi europei, diciamo, ma in generale nel mondo, è ancora un'organizzazione distributiva molto frammentata. Quindi in questo caso l'unione non fa la forza rispetto alla proposta di marca privata, quindi tante piccole aziende non riescono sempre ad essere presenti con i loro prodotti in tutte le categorie, in tutti i segmenti, proprio perché è un business fatto di volumi. Ecco, ma per quello che riguarda le private label, in realtà questo mercato che si sta sviluppando aiuta la piccola e media impresa nell'agroalimentare italiano, o no? Direi assolutamente sì, perché se guardiamo ai connotati dei co-packer, salvo poi diciamo eccezioni che ci sono un po' ovunque, stiamo parlando di aziende medio piccole, quindi non delle grandissime perlomeno, quindi nella maggior parte dei casi. Quindi sicuramente aiuta anche diciamo, un modello dove la distribuzione, quindi i supermercati e il produttore si siedono insieme e fanno diciamo, dei piani di lungo periodo, quindi si vincolano reciprocamente per raggiungere degli obiettivi in comune. Quindi questo modello collaborativo è qualcosa che può spingere molto la crescita della marca privata. Allora, intanto l'olio d'oliva ha scatenato quello che potevamo immaginare, direi che chiuderei abbastanza rapidamente il dibattito, che peraltro abbiamo anche affrontato a Cuore Denari con Nicoletta Carbone. Ne riparleremo, se siete così stuzzicati dalla questione appunto del prezzo molto basso di questa referenza, che abbiamo detto al di sotto, un prezzo troppo basso deve suscitarci qualche sospetto. Questo secondo me vale, Luigi, per l'olio d'oliva, ma penso che valga per tanti. Posso dire un'ultima cosa su questo? C'è una nuova tendenza interessante che è l'everyday low price, i prezzi bassi tutto il giorno senza promozioni. In particolare c'è una catena che lo sta facendo e soprattutto tutti i giorni dell'anno non ci sono promozioni, non ci sono sconti, non ci sono sistemi di loyalty, di fidelizzazione. Questa catena sta andando molto bene, nonostante abbia come competitor dietro l'angolo le catene che fanno la promozione. Questa è una tendenza interessante che deve anche far riflettere per andare a cercarsi il prezzo vero, il prezzo medio equilibrato. Allora, intanto adesso aspettiamo che i nostri colleghi, che Laura Vanossi e Marco Lombardo, ci mettano in collegamento con alcuni ascoltatori che sono pronti a dirci la loro sui temi che abbiamo sollevato questa mattina. Vorrei sentire per esempio Claudia Dalodi, che ha qualche commento da fare sui prodotti a marchio del supermercato, perché lei dice non li compra assolutamente, poi ce ne spiegherà le ragioni. Allora, dicevamo prima De Camillis, direttore appunto del gruppo Nielsen, che indaga con grande attenzione questo mondo e non solo. Dicevamo che praticamente quasi tutte le referenze del settore alimentare sono coperte, ma quali sono in assoluto quelle più ricercate dal consumatore? Qual è il marchio del grande, qual è la referenza del grande distributore che piace di più al consumatore? Citavo la pasta prima, ma poi chiaramente il mercato si è allargato, adesso cosa viene ricercato? Provo a dare una risposta, diciamo, non sul gradimento, che è sempre difficile da misurare, perché insomma può essere diverso da consumatore a consumatore, ma su una cosa, diciamo, più tecnica, quindi le quote di mercato. Quindi le categorie dove la marca privata riesce a guadagnare più spazio sono ad esempio nei surgelati, ma anche in prodotti, diciamo, molto basici, quindi di largo, la verdura, per esempio, di largo consumo, ma anche per esempio tutto il mondo del disposable, quindi dell'usa e getta, diciamo, la carta e i piatti sono categorie dove il distributore magari propone solo, diciamo, la sua referenza, e questo gli consente anche di avere una quota di mercato molto elevata. Quindi o prodotti, diciamo, che potremmo dire semplici, o anche prodotti dove, e questa è la tendenza più interessante guardando agli ultimi dati, dove il distributore fa un po' da garante della qualità. Quindi se cominciamo a guardare nei segmenti in crescita, quindi senza glutine, il biologico, diciamo, quelli che evitano l'utilizzo di certi ingredienti, la marca privata sta prendendo piede, perché è arrivata in molti casi anche più velocemente rispetto al prodotto industriale, ovviamente con una filiera più corta, più integrata, controllata dal distributore. Però immagino anche con grandi investimenti, quindi è anche molto importante lo sviluppo in questo senso per queste aziende. Investimenti, diciamo, però che rendono, perché cavalcano delle tendenze, delle onde, e soprattutto soddisfano dei bisogni dei clienti, perché c'è anche dal punto di vista competitivo tra le aziende della distribuzione un'altra partita, quella di avere sui propri scaffali dei prodotti di marca del distributore che li distinguano, diciamo, dalle altre catene. Quindi io vado in un supermercato e non vado in un altro perché trovo un prodotto, diciamo, di marca del distributore che non trovo altrove. Quindi sono investimenti in grado di generare anche un buon livello di fedeltà da parte dei clienti al negozio, alla catena, all'insegna. Vi avevo anticipato che avremmo ascoltato Claudia Dalodi, pronta ad intervenire in diretta. Claudia, benvenuta, le faccio raccontare un po' il suo pensiero su questo argomento, poi mi prendo un minuto di pausa, racconto la borsa di oggi, poi le faccio rispondere dai nostri interlocutori di stamattina. Benvenuta a Cibus. Sono qui, buongiorno. Eccoci qua. Ecco, allora, il mio pensiero è che io evito di acquistare i prodotti a marchio dei supermercati, perché eticamente non lo trovo giusto nei confronti della nostra economia. Non voglio fare il di più con argomenti alti, per carità. Io sono un semplicissimo produttore agricolo, non ho stabilimenti di produzione degli alimenti né di niente, però trovo che chi fa fare i prodotti a marchio dando semplicemente una lavorazione a conto terzi da fare può pure sorvegliare la qualità e tutto, però non si assume il rischio della produzione. Non si assume il rischio del stabilimento, degli operai, della ricerca della materia prima. Io ho provato, quando faccio la spesa, alla fine mi ritrovo con massimo 5 euro di differenza. Preferisco bere qualche caffè in meno al bar e premiare i produttori che rischiano producendo direttamente. Claudia, lei ha un punto di osservazione molto interessante, che è quello dell'imprenditrice nel settore, quindi conosce molto bene le dinamiche anche che consentono ad un produttore di arrivare poi sul banco del supermercato. C'è anche uno spirito etico dietro al commento di Claudia. Luigi, vedo che eri molto colpito. Luigi Rubinelli, direttore di Retail Watch. È un'osservazione interessante. Forse un po' di parte, però è anche in parte condivisibile. Direi questo: è vero che il distributore, il supermercato non produce, per natura economica vende, però diciamo che ormai tende a esprimere nella vendita i bisogni delle persone che entrano nel supermercato. La questione del prezzo non è secondaria, la questione della qualità nemmeno. L'etica la metterei anch'io, personalmente e professionalmente. Benissimo. Adesso faccio commentare anche De Camillis questa osservazione di Claudia, però sono in ritardo sugli aggiornamenti di borsa, per cui andiamo un po' a vedere se si è risollevata la giornata di Piazza Affari. Temo di no. A tra pochissimo. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Una monetina a te, una a te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina. Allora, naturalmente anche andando a fare la spesa stiamo attenti ai prezzi, cerchiamo di risparmiare, ma in realtà poi alla fine gli italiani, come dire, sulla qualità di quello che mettono in bocca per mangiare non è che proprio sempre siano disposti a scendere a patti. Insomma, anche di questo stamattina stiamo parlando in questa speciale diretta da Cibus 2016, dove Cuore e Denari oggi affronta soprattutto le problematiche di portafoglio. E quindi italiani attenti alle promozioni, ai prezzi, agli sconti per naturalmente comporre il proprio carrello della spesa, e poi abbiamo esplorato anche i prodotti a marca del distributore con tante osservazioni di carattere etico da parte dei consumatori. Allora, Romolo De Camillis di Nielsen, che ci ha portato alcuni dati su questo mondo in crescita in Italia, anche se ancora un po' distaccato rispetto invece ai trend di crescita nel resto d'Europa, la nostra ascoltatrice di Lodi non ci sta. Che ne dice? Per rispondere un po' all'ascoltatrice che è intervenuta. A cui si unisce anche Ornella, che dice: sono d'accordo con la telefonata relativa ai prodotti private branding, li chiama, seguo la stessa filosofia da sempre. E, diciamo che il distributore, quando mette il suo brand, quindi il brand del suo negozio, su un prodotto, un rischio se lo assume, ed è forse anche un rischio maggiore rispetto a quello, diciamo, del produttore. Quindi da questo punto di vista credo che, insomma, bisogna valutare che il distributore farà tutto in maniera che di offrire un prodotto migliore, e questo è assolutamente quello che noi oggi leggiamo sul mercato. Quindi non ci sono distributori che rincorrono solo il prezzo senza guardare alla qualità intrinseca del prodotto, e si assumono un rischio forte quando mettono il loro brand sul prodotto. In generale noi siamo di fronte a un consumatore un po' più laico, che è vero che guarda al prezzo, però nel caso specifico delle marche private e in generale guarda anche alla qualità. Quindi 45% degli italiani, dalla nostra ricerca, ci dice che il prodotto del distributore ha una qualità, diciamo, paragonabile a quella del prodotto industriale, e il 30% crede che questa qualità stia migliorando, quindi percepisce anche lo sforzo che viene fatto per migliorare costantemente il livello di qualità. Io credo sia questa la direzione, e quindi, diciamo, in questo caso il rischio è minimizzato sia per il produttore che per il distributore. Allora, stavamo invece sorridendo a microfoni spenti con i miei ospiti su una osservazione un po' colorita fatta da un ascoltatore di Vicenza, Nicola, che salutiamo, un camionista. Noi siamo seguitissimi dai camionisti, che sono sempre in giro naturalmente, quindi si fanno fare compagnia dalle trasmissioni radiofoniche. Lui dice: io non capisco, se paghi di più mangi bene, se paghi di meno mangi, utilizza un termine un po' colorito, male, ma perché non si fa roba buona per tutti? Nicola, io penso che in Italia non abbiamo da lamentarci per la qualità di quello che riusciamo a mangiare. Certo, magari qualche volta il supermercato un po' disorienta, ma io ritengo che, a sentire anche delle testimonianze che ci arrivano, Luigi, abbiamo a che fare con forse ogni problemi di ogni tipo in Italia, tranne che consumatori sprovveduti. Ma assolutamente sì. Giusto per parlare con il camionista, ci sono le guide delle trattorie del camionista, dove si spende poco e si mangia molto bene, sparse per tutta l'Italia. Ma non solo per i camionisti, ci sono per tutti i cittadini, basta uscire dal proprio guscio e cercare questo benedetto rapporto qualità-prezzo. C'è al supermercato, c'è al ristorante, c'è nei mercati rionali, c'è nei mercati all'ingrosso, su via, siamo in Italia, stiamo molto bene. Esatto, infatti. Umberto da Napoli, benvenuto. Buongiorno. A Cibus, a Parma, da noi. Cosa vuole raccontarci? Noi nella scelta del nostro prodotto non ci soffermiamo soltanto sull'ingrediente, sia quello che può essere il brand o del distributore. La nostra attenzione la poniamo soprattutto su quella che può essere l'etica aziendale, cioè vedere se magari l'azienda si interessa di fair trade, da dove, da, già vedendo l'origine di alcuni prodotti e relazionandole a quella che è la situazione politica di quei paesi, capisce magari se si fa sfruttamento. Quindi la nostra attenzione è volta sia alla qualità, all'ingredientistica. Lei quando parla di noi, Umberto, lei mi sta raccontando noi, delle abitudini all'interno della sua famiglia? Della nostra famiglia, sì, è chiaro. Certo. Grazie Umberto, anche poi, a lei per la sì. Anche guardando insomma i tipi di involucri che vengono utilizzati, talvolta pomposi, packaging, di materiale superfluo. Sì, tutta la carta che poi dobbiamo buttare non appena arriviamo a casa, anche quello. Sì. Su quello, Umberto, le devo dire che anch'io faccio molto spesso delle riflessioni, proprio perché avendo anche una casa piccola devo sistemare la spesa immediatamente, quindi tutto l'involucro di carta lo devo buttare immediatamente. Luigi, tu pensa che cosa spinge oggi anche il consumatore? Molto interessante anche questo ragionamento. La telefonata va nella direzione giusta, perché ad esempio i prodotti fair trade, amici dell'ambiente, amici delle persone che lavorano negli stabilimenti di produzione, stanno prendendo sempre più piede perché sono forse i più trasparenti. Sul packaging, sia le industrie di marca che le marche del distributore stanno lavorando tutte sulla riduzione proprio degli involucri. Pensiamo ai fardelli dell'acqua minerale, sì, no? Che sono ingombranti, perché uno deve portarsi via 6 bottiglie. Ci sono catene che su, certo, questo hanno fatto veramente dell'innovazione. Dovremmo aprire adesso qua il capitolo dello sfuso, no? De Camillis, che sarà un altro ambito, immagino, di analisi da parte vostra interessante, in prospettiva lo diventerà sempre di più, perché anche qua molte grandi insegne in realtà hanno il loro angolo dove permettono ai consumatori di andarsi a rifornire di detersivi in particolar modo, portandosi il proprio packaging da casa, quindi bottiglie o scatole. Altra frontiera che crescerà moltissimo, immaginiamo. È innegabile che esistono consumatori più attenti, e quindi quando mettono i prodotti nel loro carrello c'è anche, diciamo, una scelta legata all'etica. E infatti ci sono intere marche, categorie green che proprio, diciamo, cercano di cogliere questo fenomeno, quindi prodotti con un ridotto impatto ambientale. Sullo sfuso, a dire il vero, io ho qualche dubbio, diciamo, mm-hmm, sul fatto che possa crescere, molto, crescere e acquisire quote per due ragioni. Uno, diciamo, sono legate un po' alla storiche, quindi il packaging è stato proprio ciò che ha favorito una diciamo evoluzione molto rapida del largo consumo, e proprio per anche le cose che dicevamo prima, il packaging è sempre di più anche un media, quindi quello che viene riportato sull'etichetta comunica al cliente e comunica in maniera forte, quindi il prodotto, diciamo, con il suo packaging non solo offre conservazione del prodotto, ma offre anche informazioni al cliente che le cerca sempre di più. Allora, intanto, visto che li ho promessi dall'inizio della trasmissione, sarà pure ora che io sollevi il velo sulle misteriose nuove 1000 referenze che vengono presentate, sono qua in esposizione a Cibus, tanto per togliere qualche curiosità ai nostri ascoltatori, perché questa parte del programma sta finendo. Allora, intanto trovano la confezione di gorgonzola cubetti, e vabbè, qua possiamo anche non sorprenderci più di tanto. Poi chiaramente tutti i formaggi senza lattosio, la maionese senza uova, anche qua niente di particolarmente innovativo, però effettivamente la mortadella alle olive magari è un po' più particolare, così come il salame alla nocciola piemontesi, il prosciutto senza conservanti, vabbè, crema di salame e formaggio spalmabile per bruschette senza glutine, e qua l'altra grande frontiera, il panettone già fatto a fette, sto andando il nettare di melagrana biologica, la bottarga grattugiata, i carciofi al tartufo. Qui avrei dovuto trovare forse qualcosa di particolarmente avvincente, lo yogurt anche in questo caso senza lattosio, per poi non parlare di tutta la fortissima presenza di prodotti che si rifanno all'alimentazione vegana. Insomma, Retail Watch ha da lavorare un bel po', Luigi Rubinelli. Ho girato diversi padiglioni, effettivamente ho incontrato alcuni dei prodotti che adesso tu citavi. Diciamo che Alcuni di questi avranno vita breve perché osservano delle mode, altri mi sembrano più di lungo periodo. Ho visto addirittura una confezione per le uova fatte di fibre vegetali. Anche questo è un bel trend, ripercorrendo il problema del packaging e all'attenzione all'ambiente. Però l'olio vegano, l'olio d'oliva vegano veramente vince su tutti. Insomma, grazie a Luigi Rubinelli e a Romolo De Camillis per essere stati con noi. Io adesso devo parlare, per l'ultimo quarto d'ora di tempo che ci rimane, delle nuove professioni legate al cibo. Quella di cui parliamo non è nuovissima, però bisogna farla molto bene per chi vuole avventurarsi su questo terreno. Quindi grazie, a tra pochissimo. Cuore e denari. Allora, chissà se alla nostra prossima ospite piace la colonna sonora con la quale abbiamo scelto di introdurla. Allora, ho suscitato un po' di mistero fra i nostri ascoltatori perché abbiamo parlato delle nuove professioni legate al cibo. In realtà questa non è nuovissima, sicuramente anche questo è un trend che stanno cavalcando in molti, ma come in tutte le cose non ci si può improvvisare, per cui anche queste nuove professioni nel mondo dell'agroalimentare bisogna farle con professionalità, con attenzione, con tutta l'attrezzatura necessaria per avere poi un percorso di successo. Allora, io sono molto contenta di avere con noi questa mattina la food blogger per eccellenza, Chiara Maci. Chiara, buongiorno e benvenuta. Ciao Deborah, buongiorno, grazie mille. Stavo grazie. Ballando la canzone di inizio. Ti piace? Sì, in realtà questa me la uso per le questioni finanziarie, però insomma ci sembrava divertente anche per introdurti. Allora, io ho di fronte a me aperti nel mio computer sia il tuo sito chiaramaci.com e poi ho naturalmente anche tutto il mondo di Fox, il canale televisivo dove tu vai in onda da qualche mese con Evita da food blogger, che so che ha molto successo. Benissimo, abbiamo raccontato tutto. La terza informazione che devo darti è che sabato sera io mi sono cimentata con una tua ricetta con i falafel, ma devo ancora perfezionare il percorso e poi ti devo chiamare in privato per dirmi dove ho sbagliato, perché qualcosa non ha funzionato sulla consistenza del prodotto. Chiara, allora raccontaci un po' questa vita da food blogger, com'è? Perché io vedo che il tuo sito è sempre aggiornato costantemente, perché tu tra la TV, prima cosa. Ecco. Guarda, la costanza secondo me nel blog è forse veramente la prima cosa, il primo motivo di successo, nel senso che io quando ho cominciato pubblicavo 3 volte al giorno, che se ci pensi adesso, anche se quando lo racconto tutti mi dicono 3 volte al giorno, è tantissimo mettere 3 ricette al giorno o 3 notizie perché al devi giorno. Fare, certo. Però alla fine io volevo ovviamente affermare il blog, e in un contesto in cui ce n'erano già un po' quando ho aperto nel 2010, non tantissimi, eravamo all'inizio, diciamo così, ho pensato di farlo con una chiave diversa, quindi quella del aggiornare frequentemente, costantemente, tutti i giorni il blog. Mm-hmm. Adesso va molto bene, quello che racconto poi anche nel programma Fox Life è proprio questo, cioè come cucinare, come raccontare il cibo, che non è parlare di cibo, ma è comunicare il cibo attraverso un mio modo di vederlo. Il mio modo di vederlo è sempre quello della famiglia, molto sentimentale, molto vissuto anche. Il tema della comunicazione però è fondamentale, perché Chiara, volevo proprio insistere su questo aspetto. Il tuo mestiere non te lo sei inventato da un giorno all'altro, tu sei, se non mi ricordo male, laureata in giurisprudenza, fai bravissima, anche la consulente per le imprese nel marketing agroalimentare, e il tuo percorso, esatto, è il tuo lavoro principale. Chiara, ci sei? Sì, sì, assolutamente, quello è il mio lavoro principale, anche perché io arrivo dalla comunicazione. Hai detto benissimo tu, sono laureata in giurisprudenza, però poi ho fatto marketing in azienda. Mm-hmm. E ho imparato ovviamente a comunicare un prodotto, ma poi l'ho fatto mio facendolo della mia grande passione, che era quella della cucina. Anche perché io arrivo da una famiglia di enogastronomi, sono sommelier da tanti anni, ma soprattutto sono nata in Campania con un padre pugliese e una mamma bolognese. Quindi ho avuto questo mix di regioni che mi ha anche molto aiutato nel fare questo lavoro, che poi ovviamente in Italia abbiamo prodotti pazzeschi. Esatto, allora ti stuzzico un po' sui temi che abbiamo affrontato nella prima parte della trasmissione, perché naturalmente tu, per arricchire il tuo blog e comporre le tue ricette, cerchi, so benissimo, anche prodotti con le materie prime assolutamente di qualità, però vai a fare la spesa anche tu. Come ti orienti tra promozioni, super sconti delle catene della grande distribuzione, i prodotti di marca del distributore? Sono trend che anche questi osservi quando compri gli ingredienti per fare poi il tuo lavoro? Assolutamente sì. Allora, io ho sempre i miei punti di riferimento, che sono normalmente per la carne, per il pesce e per la verdura, che sono i tre ingredienti principali poi della quotidianità e anche non solo del lavoro, ma anche di quello che mangio io, che faccio mangiare a mia figlia. Io guardo molto le offerte, sono sincera, mi piace perché da donna che ovviamente è responsabile d'acquisto in casa e che ogni giorno sceglie qualcosa, quando è prodotto alimentare vado a controllarlo. Io trovo che magari contrariamente a quello che pensano in tanti, ci sono catene che fanno le offerte dell'ultimo giorno, cioè tutti i prodotti in scadenza. A me capita spesso quando sono prodotti ovviamente che vedi che sono ancora buoni, ma lo sono normalmente perché ovviamente per obbligo li devono togliere poi dal mercato, tendo a comprarli molto spesso, mi capita per gli yogurt, mi capita per il latte, certo, perché sono prodotti che uso in giornata o che uso io, che mangio la bambina, quindi quello molte volte conviene. Sto molto attenta a quello che spendo e mi rendo conto di quanta ignoranza però ci sia, soprattutto quando si va a fare la spesa, anche nelle grandi catene di supermercati. Conosco, esatto, molto bene il prezzo originario io di tanti prodotti. Ah, ecco, quindi, perché il tema è anche un po' quello, quando si spinge molto, molto verso il basso, abbiamo fatto questo ragionamento prima, alla fine il consumatore finale non sa quale sarebbe quello corretto che dovrebbe pagare per quel prodotto e quindi si disorienta. Ma infatti, ottimo, poi sempre su quello che fai, la leva è su quello. Io adesso che mi sono appassionata molto di piante, faccio l'orto in terrazzo, curo io tutte le verdure, mi sto rendendo conto di quanta differenza ci sia sul, ovviamente, prodotto iniziale e il prodotto finale. Il ricarico. Finale. Sì. Esatto, e tutto questo naturalmente per rispettare anche il percorso della filiera agroalimentare. Certo, tutti, certo, i passaggi vanno remunerati, ma qualche volta qualche passaggio non si capisce perché, esatto, veda la moltiplicazione del prezzo un po' troppo. Senti, sì, noi stiamo purtroppo andando verso la chiusura, a parte che sei, sì, invitata a venire in diretta a trovarci in radio una volta, ma con volentieri, la tua presenza fisica, quando uscirai fuori da quegli studi televisivi che ti hanno rapita. Io ti continuo ancora a seguire nelle repliche di Cuochi e Fiamme con un altro nostro amico. Brava, quelli buoni e decenti. Un'indicazione per i provetti food blogger all'ascolto, in un minuto, Chiara. In un minuto la cosa è difficile, quindi la costanza, no? È la cosa più importante, avere rispetto, umiltà. Saper scrivere, che sembra una cosa scontata ma non lo no, è per niente, assolutamente, e soprattutto scrivere di quello che si sa e non delle cose in più, anche, esatto, questa non è una cosa scontata. Chiara, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille a voi, buona ti vogliamo giornata. Molto bene, bocca al lupo allora ancora. Noi da Cuore e Denari in diretta da Cibus 2015 abbiamo terminato, speriamo di avervi divertito appunto con 2015 un'altra volta, ho detto stamattina, e non sono ubriaca, direi che qua non si beve vino perché non siamo a Vinitaly, si mangia solamente, ma evidentemente anche il mio, come dire, la mia alimentazione virtuale, perché non ho provato nulla, mi ha ubriacata. Grazie a tutti, forse sono solo un po' stanca. Noi torniamo domani in diretta regolarmente da Milano, ci sarà Investire Informati, quindi attenzione a tutti i vostri risparmi. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.